Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Tir in corteo sabato scorso per trasportare, il caso di dire, sulle strade e sulle piazze il malessere di una categoria che nel corso degli ultimi tempi ha subito pesantemente gli effetti della crisi e di un mercato sregolato. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, negli ultimi 7 anni hanno chiuso 21.000 imprese e sono stati cancellati almeno 70.000 posti di lavoro. Uno stillicidio che si è materializzato spesso in silenzio e lontano dai riflettori. Grazie ad una serie di provvedimenti come il superammortamento e i contributi per gli investimenti, il mercato dei veicoli commerciali e pesanti è in ripresa, come confermano anche i dati di vendita dello scorso febbraio, ma si tratta di un indicatore parziale per valutare lo stato di salute del comparto. Oggi, denunciano le associazioni di categoria, il mondo dell'autotrasporto soffre soprattutto per la concorrenza sleale praticata dai vettori esteri, dell'Est Europa in particolare, favoriti da costi operativi nettamente inferiori. Occorrono misure per riequilibrare le pari opportunità sul mercato e la prima rivendicazione. In pochi anni, sulle rotte internazionali, in termini di tonnellate trasportate, l'Italia ha perso il 51%, la Bulgaria è salita del 164%, la Polonia, paese balzato nel frattempo in testa alla classifica, del 124%, giusto per rendere l'idea. Ma non c'è solo questo secondo le associazioni, tra le altre questioni rimaste sul tappeto la decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali, l'indicazione dei costi minimi di esercizio e poi c'è il blocco dei trasporti eccezionali per la mancata concessione delle autorizzazioni al transito su ponti e cavalcavia, un effetto della tragedia avvenuta l'ottobre scorso ad Annone Brianza in provincia di Lecco. Il Tir Day di sabato promosso da Unatras, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, è andato in scena in 20 città, da Trieste a Messina, passando per Milano e Roma. Cortei di mezzi pesanti in marcia lentissima dalle tangenziali ai porti all'interno dei centri urbani. A Venezia un auto articolato ha sfilato su una chiatta lungo il canale della Giudecca fino a San Marco. Il punto sulla manifestazione da Amedeo Genedani, presidente di Unatras e Confartigianato Trasporti. Bilancio positivo per le manifestazioni, c'è stata una grande partecipazione, si parla di circa 700 veicoli che hanno manifestato, qualche migliaio di persone erano presenti a queste manifestazioni dove hanno fatto le conferenze stampa. Io penso che ci poteva essere una risposta maggiore, che ci fosse stata più possibilità di fare in alcune province in cui sono stati negati, oserei dire negati, permessi per manifestare, oppure c'è stato imposto delle riduzioni drastiche del numero dei veicoli che potevano partecipare. Quindi l'autotrasporto c'è, l'autotrasporto ha dato il suo segnale, speriamo che ci sia anche il governo che dia una risposta alle richieste attese da tempo. Sulle rivendicazioni della categoria sentiamo anche Cinzia Franchini, presidente di CNA FITA. Questi sono argomenti tutti molto molto complessi, cioè non sono provvedimenti che una volta convocato un tavolo di confronto con il governo sono risolti. Abbiamo la necessità di elaborare anche delle normative di riferimento, per cui i tempi sicuramente non sono brevi. E in più, insomma, anche tra le associazioni di rappresentanza nelle richieste occorre ad esempio trovare un punto di mediazione. Le faccio un esempio su tutti. Abbiamo parlato di trasporti eccezionali, tutti d'accordo nel dire occorre intervenire, però c'è chi dice occorre intervenire solo per sbloccare le licenze, se ne affitta le dice, la norma va completamente rivista. E proprio mentre in Italia i trasporti eccezionali sono alla paralisi, in Francia il governo ha introdotto una modifica al codice della strada per favorirne la circolazione. In sostanza agli incroci i trasporti eccezionali hanno la precedenza su tutti gli altri mezzi, ad eccezione chiaramente di quelli impegnati in attività di soccorso. Dicevamo prima della concorrenza sleale, del fenomeno del dumping sociale che distorce il mercato. In Germania già da un po' di tempo è stato introdotto il salario minimo anche per gli autisti stranieri, ma la misura non ha prodotto i risultati attesi. E così nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato una risoluzione per chiedere in sostanza al governo di adottare misure che vietino il riposo settimanale in cabina. Una norma di questo genere è già in vigore in Francia, ci sono infatti autisti dell'Est che per mesi trascorrono i fine settimana nelle aree di servizio autostradali, una pratica che peraltro possiamo constatare direttamente transitando al volante della nostra auto. Oltre ad una distorsione in termini di concorrenza, in ballo ci sono la dignità del lavoro e la sicurezza stradale. Un altro tema caldo di queste settimane riguarda le nuove norme sulle revisioni per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, norme che entreranno in vigore il 4 aprile. Con una lettera inviata al ministro Graziano Del Rio, Anita ha avanzato alcune proposte, sentiamo quali da Angelo Nascenzi della Segreteria Generale. Anita ha preso atto della pubblicazione delle nuove disposizioni in materia di revisione e ne ha sostanzialmente chiesto una sospensiva in attesa dell'emanazione della nuova direttiva 2014/45 che dovrà essere recepita in Italia entro la fine di maggio per avere più tempo al fine di approfondire le tematiche che sono emerse a seguito dell'introduzione delle nuove procedure che hanno fatto da un lato aumentare le tempistiche di revisione del singolo pezzo, sia in quanto impone una presa di responsabilità da parte dell'officina autorizzata presso cui le imprese sono obbligate a fare manutenzione ordinaria e straordinaria, su determinati elementi che formano oggetto di revisione del veicolo e quindi sotto la piena responsabilità dell'ingegnere, del funzionario della motorizzazione che effettua appunto la seduta di revisione. Anita sostanzialmente contesta quello che sembra a tutti gli effetti un precollaudo e chiede di nuovo di accelerare il processo di terziarizzazione delle operazioni di revisione facendo entrare privati nella gestione delle revisioni, così come è avvenuto anni fa per la revisione delle vetture. Il 1 giugno era stato inaugurato il tunnel ferroviario del Gottardo, il più lungo al mondo. Conclusi i collaudi, l'11 dicembre il tunnel era stato aperto al traffico regolare. Dopo 100 giorni si tirano le prime somme, in poco più di 3 mesi. Quindi nel tunnel sono transitati 10.300 convogli, per 2/3 si è trattato di treni merci. Per questi ultimi la media giornaliera è stata di 210 transiti al giorno. Dai binari torniamo sulle strade, torniamo sui camion. Dal 2009 in Italia circolano anche auto articolati lunghi 18 metri, cioè un po' più lunghi rispetto alle dimensioni standard e quindi in grado di trasportare un po' più di merce. In realtà parliamo di un numero limitato di mezzi per i quali è stata concessa l'autorizzazione a titolo sperimentale. Va detto che in altri paesi europei, per esempio in Spagna, si testano tir ancora più lunghi, 25 metri e mezzo con massa totale di 60 tonnellate. ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, ha fatto il punto sul cosiddetto progetto 18. Abbiamo intervistato Andrea Bertoia, presidente della sezione rimorchi. Io direi che abbiamo ottenuto ottimi risultati sia per noi costruttori che per il trasportatore, che è stato contento di questo tipo di soluzione perché permette di caricare di più, di avere più spazi sul veicolo. Che risultati in concreto ha dato questa sulla base dei dati che avete raccolto? Allora, per le strade non ci sono stati problemi, che era la prima cosa, perché ovviamente la cosa... Ricordiamo, le misure standard sono... Allora, le misure standard erano 16 metri e mezzo, per cui è stato allungato tutto il convoglio di 1,5 metri. Per cui... è stato allungato di 1,5 metri semirimorchio. La paura era per le strade, invece per le strade abbiamo riscontrato che non ci sono stati assolutamente problemi. Qualche problema in fase di carico, ma nei piazzali in fase di manovra, perché ovviamente le macchine sono più lunghe. Più spazio, più carico, questo è il concetto. In Spagna addirittura si stanno sperimentando, circolano i mega truck 25 metri, in Italia non credo che li vedremo mai, no? Io non sono d'accordo sui 25 metri per problemi tecnici nostri dei costruttori di costruzione e soprattutto perché a mio parere non abbiamo le strade per andare con i 25 metri. Noi abbiamo l'Appennino, tutte strade che hanno una marea di curve, gli assi verrebbero spostati terribilmente indietro, per cui tutte le sterzate andrebbero penalizzate da queste lunghezze. Per cui io ritengo sia un po' un eccesso. Il 18 metri è un giusto compromesso. Con hashtag autotrasporti per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.